il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Abbiamo parlato più volte in questi mesi di PAC, la politica agricola dell'Unione Europea, che è stata di recente approvata. Oggi vogliamo approfondire l'argomento e lo facciamo con una persona che abbiamo già incontrato circa un anno fa, Renzo Micheletto, il responsabile di Europe Direct Veneto, un centro di studi, diciamo, sull'Unione Europea di Veneto Agricoltura, che ha pubblicato di recente proprio un quaderno dedicato alla riforma della PAC 2014-2020, che è in questo momento forse il documento più aggiornato per capirne qualche cosa. Benvenuto Renzo. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere di nuovo disponibile a spiegarci un po' questo argomento, che non è certamente facile, perché sappiamo che la PAC è anche, oltre ad essere complessa, è anche imponente, perché riguarda ancora una parte sostanziale del bilancio dell'Unione Europea, anche se mi pare che sia diminuito anche significativamente in questo nuovo settennato 2014-2020. Sì. Cosa significa che l'agricoltura perde di importanza? Non perde di importanza, di sicuro. L'agricoltura rimane al centro, che tra l'altro è anche il titolo che abbiamo dato alla nostra pubblicazione fresca di stampa, l'agricoltura al centro. Quindi è un qualcosa di molto importante su cui l'Unione Europea ci crede, nel senso che l'agricoltura rappresenta una colonna portante dell'economia europea. Però purtroppo bisogna fare i conti con un bilancio costantemente in calo, e quindi per il settennato 2014-2020 tutto il bilancio europeo ha dovuto fare i conti con i tagli, quindi con una riduzione, e di conseguenza anche il capitolo agricolo. Rimane però il fatto che il capitolo agricolo è diminuito del 4% rispetto al precedente settennato, che era il 2007-2013. Ciò nonostante, la PAC rappresenta comunque la voce di spesa più importante per l'Unione Europea, con il 38,9% delle risorse a disposizione. Ecco, possiamo anche dare una cifra, non un percentuale, ma... Sì, anche... sono circa 900, dunque sono sui... il bilancio europeo complessivo è di 960 miliardi di euro. Per quanto riguarda la PAC, che poi non è solo agricoltura ma anche sviluppo rurale, complessivamente arriviamo sui 373 miliardi di euro, quindi vuol dire sono cifre veramente molto ma molto importanti, 373 miliardi di euro destinati all'agricoltura, e quindi per questo non è stato semplice arrivare a una definizione del quadro finanziario pluriennale. Proprio perché soprattutto i paesi del nord Europa nella fase iniziale di definizione della riforma della PAC chiedevano, come dire, una ulteriore riduzione del capitolo agricolo. Per quale motivo? Evidentemente per i paesi del nord Europa l'agricoltura non è importante quanto non lo sia per i paesi del sud Europa. Se un'agricoltura fosse diversa, magari estensioni diverse, monoculture, mentre noi forse abbiamo un'agricoltura ma piccole estensioni, diverse tipologie di prodotti, una grande biodiversità. Certo, chi produce orticoltura nella provincia di Verona, metto lì un caso, l'agricoltore che fa orticoltura a Verona non può essere certo paragonato a un allevatore irlandese che vede i suoi pascoli, prati pascolo con le mucche lì tranquille che pascolano, insomma l'impegno credo sia ben diverso. E l'Unione Europea ha dovuto, noi siamo in 28 Stati membri, quindi ha dovuto fare i conti con tutte queste diversità che sono state quindi tenute in considerazione, come si fa sempre a livello europeo, proprio si cerca di poi di scendere a mediazioni e quindi finalmente proprio sul filo di lana si è riusciti ad arrivare ad una definizione sia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e da qui poi alla riforma della PAC. Ecco, tra questa mediazione c'è anche una questione che riguarda il cosiddetto primo pilastro, i pagamenti diretti. Che cosa cambia per gli agricoltori? Cambia innanzitutto, sono stati ridotti, quindi soprattutto per alcuni paesi le risorse a disposizione si sono ridotte più che in altri paesi. Per quale motivo? Si chiama convergenza esterna. Praticamente questa riforma ha previsto che gli agricoltori dei paesi entrati nell'Unione Europea nel 2004, quindi tutti i paesi del blocco ex blocco sovietico per capirsi, che percepivano degli aiuti molto inferiori rispetto agli agricoltori dei paesi che già facevano parte dell'Unione Europea, con questa riforma anno dopo anno i livelli di aiuto crescessero per uniformarsi a quelli degli altri agricoltori. Quindi cosa significa questo? Che essendo il lenzuolo quello che è, si tira da una parte ma si scopre dall'altra, quindi le risorse che in precedenza erano destinate agli agricoltori dei paesi che già facevano parte dell'Unione Europea, come l'Italia, la Francia, la Spagna, eccetera, vanno ad alimentare le risorse, le disponibilità finanziarie e quindi gli aiuti agli agricoltori dei paesi come Romania, Bulgaria e così via. Ecco, questa si chiama convergenza esterna, questo meccanismo. Un po' strano, però noi facciamo parte dell'Unione Europea, siamo in 28 e quindi questa è la politica. Le risorse devono essere distribuite per tutti. Sì. Ci fermiamo qualche minuto, tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. By your side. You got me wide open, wide open, yeah. And now I'm free falling, free falling. Del quadrifoglio, oggi stiamo parlando della nuova PAC con Renzo Micheletto, direttore di responsabile di Europe Direct Veneto. Ecco Renzo, parlavamo di pagamenti diretti e che dicevamo che la coperta è più corta, ci si è stata qualche riduzione, però nel concreto gli agricoltori riusciranno ancora ad averla? Sono cambiate anche le modalità per avere questi pagamenti? No, allora, anche gli agricoltori italiani continueranno ovviamente a ricevere questi aiuti sotto forma di pagamento diretto. Dovranno però sottostare a delle nuove regole. Questa nuova PAC 2014-2020 è stata chiamata una riforma verde, nel senso che è stata posta grande attenzione, si chiama greening, questo meccanismo che prevede quindi da parte degli agricoltori un contributo al territorio. Mi spiego. In pratica, per poter ricevere il contributo sotto forma di aiuto diretto, dovranno sottostare a delle regole più rispettose dell'ambiente. E quindi, cosa significa questo? Significa che l'Unione Europea chiede agli agricoltori un servizio in più, che non è semplicemente quello di coltivare la terra e produrre derrate alimentari, ma anche di dedicarsi, attraverso specificazioni, alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Ecco, questo greening fa sì che questa riforma sia ormai considerata da tutti una riforma più rispettosa dell'ambiente, legata a tutta una serie di altre politiche che vanno, come per esempio le politiche delle energie rinnovabili, quindi anche grande attenzione verso le risorse rinnovabili delle energie. Ecco, questo è un altro aspetto che fa sì che questa riforma, pur ridotta purtroppo sotto il profilo delle risorse finanziarie, rappresenti però una grande svolta per l'ambiente. Quindi l'agricoltore produce derrate alimentari e al contempo aiuta e salvaguardia in maniera rispettosa il territorio. Quindi l'agricoltura ritorna al centro, perché non è più vista solo come una produzione, ma anche come appunto salvaguardia, e quindi come un baluardo per la salvaguardia del territorio. Questo può far sì forse che ci siano anche altre risorse da altri capitoli di bilancio che tornano agli agricoltori, quindi parliamo del secondo pilastro del PSR, sì, ma anche forse anche altre politiche dell'Unione Europea. Innanzitutto, come giustamente dicevi, la politica agricola europea si sviluppa su due pilastri, il primo che è quello dei pagamenti diretti agli agricoltori e il secondo che è quello dello sviluppo rurale. Tradotto, altro non è se non il programma di sviluppo rurale che ciascuna regione europea, nel nostro caso il Veneto per esempio, ma tutte le regioni italiane e tutte le regioni europee, stanno proprio in queste ore, in questi giorni, elaborando il proprio programma di sviluppo rurale 2014-2020. Anche all'interno di questo strumento finanziario e di programmazione, le aziende agricole potranno trovare importanti risorse proprio proprio per l'implementazione e il rafforzamento delle strutture agricole. Quindi, ecco, purtroppo il tempo sta scadendo, dobbiamo un po' chiudere questa intervista, però volevo chiederti un riferimento dove saperne di più, qualche sito internet, qualche... Sì, rivolgendosi a Veneto Agricoltura, a Europe Direct Veneto, è possibile avere tutte le informazioni riguardanti queste tematiche a livello locale e a livello europeo. Sul portale Piave della Regione Veneto è possibile reperire tutte le informazioni quasi in diretta di tutto ciò che riguarda lo sviluppo rurale nel Veneto, comprendente quindi le misure che sono a disposizione degli agricoltori proprio per poter accedere ai finanziamenti. Ripeto, il portale Piave. E ricordiamoci che per il settennio 2014-2020 in Regione Veneto il secondo pilastro metterà a disposizione 1.200.000.000 di euro, ripeto 1.200.000.000 di euro a favore dello sviluppo rurale, che si va ad aggiungere ai 2.300.000.000 di euro del primo pilastro. Grazie di nuovo per la tua disponibilità e ti risentiremo, grazie per la un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Renzo Micheletto. Passiamo adesso alle consuete notizie e rimaniamo un po' in questo tema, perché la settimana di fiera agricola, la storica fiera del mondo agricolo che si tiene a Verona da giovedì a domenica e che è giunta alla 111ª edizione. Abbiamo parlato proprio di PAC e per saperne di più si possono anche incontrare proprio a Fiera Agricola, allo stand della Regione Veneto, gli esperti di Veneto Agricoltura e della Regione stessa. Vi saranno anche i tecnici di AVEPA, a cui chiedere in particolare informazioni sui pagamenti degli agricoltori, di cui abbiamo appena parlato, e sulle attività che l'ente sta svolgendo nelle scuole. Vi sarà poi l'ARPAV, presente per illustrare le principali attività svolte a favore dell'agricoltura, in particolare i bollettini previsionali agrometeorologici ai quali si potrà iscrivere. Infine citiamo la presenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con una serie di iniziative che esplorano il complesso e articolato rapporto tra l'uomo e l'ambiente e in particolare due convegni dedicati alla sicurezza alimentare. Parliamo ora del problema dell'epatite e dei frutti di bosco congelati, che aveva suscitato allarmi qualche mese fa. Grazie alle indagini condotte dalla task force costituita dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dagli istituti zooprofilattici della Lombardia e dell'Emilia Romagna, l'aumento dei casi di epatite A registrato negli ultimi anni è stato correlato al consumo di frutti di bosco surgelati crudi. Seppure vi sia stata una lieve diminuzione delle segnalazioni rispetto al picco osservato nei periodi di aprile e maggio del 2013, l'incidenza rimane ancora oggi ben oltre l'atteso, evidenziando che l'epidemia è ancora in corso. Al momento, ad indagini ancora in corso, la cottura dei frutti di bosco surgelati rimane l'unica misura efficace a eliminare il rischio. Nel portale del Ministero della Salute si possono trovare tutte le raccomandazioni del caso. Ultima notizia, l'Italia è un grande importatore di pioppi, le imprese industriali utilizzatrici del mobilio e della carta ne hanno bisogno per almeno 100.000 ettari, ne mancano in Italia almeno 40.000. Nasce da questi numeri un accordo di filiera sottoscritto la scorsa settimana a Venezia dalle regioni della pianura padana con alcune associazioni di categoria degli agricoltori, della carta e del legno e con l'associazione Pioppicoltori Italiani. L'accordo intende rilanciare l'intera filiera del pioppo, che ha conosciuto un declino nel corso degli anni, nelle sue due valenze, produttiva ma anche ambientale, valorizzando ad esempio aree come quelle golenali dove non ci sono valide colture alternative. Le regioni firmatarie si adopereranno quindi per un'azione di riconoscimento degli aspetti ambientali, paesaggistici e produttivi della pioppicoltura, favorendone il rilancio mediante un adeguato sostegno economico. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci ripotete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.